Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Ancora attenzione sui mercati, spread oltre i 500 punti, euro ai minimi, solo yen. La Merkel chiamò Napolitano nuovo governo per salvare l'euro, scrive il Wall Street Journal. Fisco, in arrivo 1 milione di rimborsi, lo Stato restituisce 900 milioni di euro. Calcio, scommesse, Gervasoni ai PM, ecco i nomi della Serie A. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. Iniziamo con uno sguardo ai mercati finanziari in diretta. Sentiamo Deborah Rosciani. Buongiorno Deborah. Sì, buongiorno. Allora, la borsa sta vivendo una giornata piuttosto tranquilla, è l'ultima delle contrattazioni per quello che riguarda questo 2011. Milano guadagna lo 0,43%, la seduta era partita meglio, poi i listini del vecchio continente hanno rallentato il passo, adesso c'è un più 0,2% a Parigi e a Francoforte. Londra è negativa, meno 0,44%, peraltro oggi Londra chiude prima e la seduta sarà solamente appunto di mezza giornata. Oggi sul mercato obbligazionario sta ritornando ancora l'attenzione, se mai si fosse mai calmata, perché il mercato cerca ancora di interpretare l'esito delle due aste di ieri molto attese per quello che riguarda il Tesoro italiano, che ha collocato appunto titoli a 3 e a 10 anni con un esito che non è stato considerato completamente soddisfacente, anche se i rendimenti sono stati in netto calo. Cosa è successo qualche minuto fa? Che lo spread, il differenziale di rendimento fra i titoli italiani rispetto al Bund tedesco, ha accelerato, ha toccato i 525 punti base, mentre il tasso dei BTP viaggia al 7,07%. Ma l'altro elemento sul quale gli analisti stanno soffermando la loro attenzione è il nuovo record per il premio di rendimento dei BTP decennali italiani rispetto ai fratelli spagnoli, ai bonus spagnoli. Lo spread in questo caso è di 195 punti base, con un rendimento pagato dalla cosiddetta carta spagnola a 5,11% contro il 7,6% appunto italiano. Pertanto ancora anche la manovra che ha proposto Monti appunto sul fronte della crescita, evidentemente c'è un'attesa per qualche dato più significativo e concreto rispetto alle misure che verranno prese, e probabilmente fino a quando non si conoscerà qualcosa di più concreto, forse questa attenzione sul mercato obbligazionario, Enrico, rimarrà ancora. Bene, grazie a Deborah Rosciani. E tra poco parleremo di questa manovra, di questa delle nuove misure del governo annunciate ieri. Prima però una notizia che viene pubblicata oggi dal Wall Street Journal: non sarebbero stati solo i mercati a decretare la fine del governo Berlusconi, ma anche Angela Merkel. Lo rivela appunto il Wall Street Journal, lo scorso ottobre, a chiamare il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per chiedere espressamente la sostituzione del nostro Premier. Sarebbe stata infatti la cancelliera tedesca preoccupata che Berlusconi non fosse in grado di attuare le riforme necessarie per salvare l'euro e l'eurozona. E come dicevamo, si parla ancora oggi delle misure non annunciate ma ventilate dal governo. Ha illustrato ieri Monti alcune linee guida. Sentiamo in diretta da Roma Andrea Viali. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno Enrico. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per conoscere la sostanza delle prime misure del pacchetto Cresci Italia, come l'ha battezzato ieri Mario Monti nella conferenza stampa di fine anno. Il Premier, come dicevi, ha assicurato che non ci sarà una manovra, ma ha deluso chi si aspettava qualche indicazione in più su questi interventi per favorire il rilancio della crescita economica. I primi comunque dovrebbero essere presentati nella riunione dell'Eurogruppo che si terrà il 23 gennaio. Ieri i partiti della maggioranza hanno comunque confermato il loro sostegno al governo. Berlusconi ha chiesto però a Monti di concordare con il Popolo delle Libertà i provvedimenti in cantiere, e anche il Partito Democratico spinge per avere più voce in capitolo, soprattutto sul mercato del lavoro e pensioni. Le aperture di Monti su lotta all'evasione e alla corruzione non sembrano invece aver convinto l'Italia dei Valori. Per ora, sostiene Di Pietro, il Premier sta facendo solo televendite come quelle di Berlusconi, e con Berlusconi se la prende anche l'ormai ex alleato Bossi, che dice lui, Berlusconi, il Cavaliere e Monti di danni ne stanno facendo perché fanno tutto quello che dice la sinistra, sostiene il leader leghista, convinto comunque che presto si andrà al voto anticipato. Infine ci sono i sindacati, a Monti che ha auspicato un confronto con loro sul mercato del lavoro, anche se in tempi rapidi. CGIL e CISL rispondono di essere pronte ad un confronto serio con il governo, ma sull'insieme dei provvedimenti per la crescita chiedono anche che questo confronto non sia condizionato dalla fretta, come è avvenuto invece con il pacchetto Salva Italia. Per ora è tutto, Enrico. Grazie ad Andrea Viali, buon lavoro. Adesso cambiamo argomento. Sono in arrivo per oltre 1 milione di contribuenti più di 900 milioni di euro di rimborsi, compresi quelli chiesti con le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010. Verranno restituiti anche i canoni RAI agli over 75 esenti, naturalmente. Lo comunica all'Agenzia delle Entrate, precisando che il risultato complessivo del 2011 mostra un aumento del 60% dei soggetti rimborsati rispetto al 2010. In vista della nuova tassa sulla casa, il governo lavora anche alla revisione delle rendite catastali, mentre si avvia a conclusione la vicenda delle cosiddette case fantasma. Hanno promesso di farcela entro febbraio. 2 milioni di appezzamenti di terreno, con circa 3 milioni di fabbricati fantasma, cioè sconosciuti al catasto, e spesso anche abusivi. Ora siamo alle ultime battute di una caccia iniziata 3 anni fa dall'Agenzia del Territorio, con la sovrapposizione delle foto aeree alle mappe catastali. Molto di ciò che dall'alto appariva come una casa o un capannone, alla fine si è rivelato una tettoia o un mucchio di legname. Tuttavia sono già emersi 1,6 milioni di unità immobiliari vere e proprie, e alla fine si conta di superare i 2 milioni, una sterminata città che adesso comincerà a pagare le tasse. Il catasto, che sta ultimando le verifiche sul campo, sta già attribuendo le rendite catastali che, tranne opposizione da parte dei proprietari, diventeranno definitive. Si tratta di almeno 1 miliardo di IMU in più, considerando che in gran parte si tratta di seconde case. Il problema è l'abusivismo, perché ai comuni sono già arrivate le notifiche catastali e quindi dovrebbero controllare se queste nuove case avevano o avrebbero potuto avere il permesso di essere costruite, oppure semplicemente non sono mai state denunciate al catasto, oppure ancora non dovrebbero proprio esistere e andrebbero abbattute, creando contenzioso e rinunciando al gettito fiscale. Sinora i municipi hanno fatto finta di nulla, ma nel 2012 dovranno ricevere le denunce e i pagamenti dell'IMU, quindi qualcosa succederà. Le case fantasma comunque ormai sono state scovate e la nuova partita della riforma catastale, con gli inevitabili aumenti delle rendite, tra 2 o 3 anni potrebbe segnare un nuovo pesante capitolo del prelievo fiscale sul mattone anche nella storia di chi sinora non aveva mai pagato un soldo. Saverio Fossati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prezzi alla produzione dei prodotti industriali e occupazione al centro di nuovi dati Istat. Resta ferma l'occupazione nelle grandi imprese, stabile a ottobre rispetto a settembre, al lordo dei dipendenti in cassa integrazione più 0,1% al netto. Rispetto a ottobre 2010 il dato scende dello 0,4% al lordo della cassa e dello 0,2% al netto. Si allunga così la lunga serie di cali su base tendenziale. Sempre nelle grandi imprese, a ottobre, altro dato che arriva dall'Istat, le retribuzioni invece rialzano la testa, più 4,2% rispetto al mese precedente per la retribuzione lorda per ora lavorata, al netto della stagionalità. In termini tendenziali l'indice grezzo sale del 4,6% e su base annua si tratta della prima crescita dopo 2 mesi di segni meno. In salita anche i prezzi alla produzione dei prodotti industriali. A novembre l'indice è aumentato dello 0,1% rispetto al mese precedente e del 4,2% rispetto al novembre 2010. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia di poco fa rilanciata dall'agenzia semi-ufficiale iraniana Fars: l'Iran lancerà missili di lungo raggio domani durante un'esercitazione navale nel Golfo. La marina iraniana effettuerà test su diversi tipi di missili, compresi quelli a lungo raggio nel Golfo Persico, scrive l'agenzia. La presenza degli osservatori della Lega Araba in Siria spinge gli attivisti dell'opposizione a tentare una sfida al regime nel tradizionale venerdì di protesta, a creare tante piazze Tahrir come quella del Cairo. Le mete più importanti fissate per le manifestazioni di oggi sono Damasco, Homs e Hama. Il partito indipendentista curdo PKK, chiamato alla lotta dopo la morte di 35 civili curdi in un raid compiuto ieri dall'esercito turco al confine con l'Iraq, nel quale sono morte 35 persone. Uno dei leader del braccio armato del PKK ha rivolto un appello al popolo del Kurdistan a reagire contro questo massacro e a chiederne conto ai suoi autori. Il calcio scommesse. Carlo Gervasoni, il giocatore del Piacenza arrestato e poi posto ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Cremona, ha chiamato in causa numerosi giocatori di Serie A presunti complici delle combine. Tra questi Mauri della Lazio, Milanetto del Genoa, Benussi e Rosati del Lecce. La loro posizione sarà valutata dagli inquirenti. Oggi intanto potrebbe tornare in libertà Luigi Sartori, interrogato ieri per 6 ore. Non c'era nulla da confessare, ha precisato il suo legale Antonino Tuccari al termine dell'interrogatorio. Ha spiegato e non ha confessato perché non aveva nulla da confessare. Non ci sono conti cifrati in Svizzera. Ci sono conti in Svizzera. Ce ne sono di conti in Svizzera. Cambiamo argomento. Alla vigilia del Capodanno si intensificano in tutta Italia, come ogni anno, i sequestri di botti illegali. Nel capoluogo campano la Guardia di Finanza ha scoperto una fabbrica e 2 depositi di fuochi clandestini e sequestrato 4 tonnellate di botti illegali. Una persona è stata arrestata, altre 4 denunciate. E a fare paura c'è un botto micidiale. Si chiama Spread, ci conferma il comandante delle Fiamme Gialle di Napoli, Nicola Altiero. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Trattasi praticamente di un artificio caratterizzato da un grosso quantitativo di polvere nera pressata, avvolto da un involucro di cartone multistrato, con un effetto detonante, diciamo, pressoché micidiale. Si narra che il costo sul mercato di questo artificio possa superare di gran lunga i 100 euro. Siamo nell'ordine intorno ai 2 chili di polvere nera pressata. Riescono a scardinare la clair di un negozio, a sventrare una stanza intera, a scardinare una porta, a produrre schegge e quindi a proiettare pezzi a distanza anche di 50-100 metri. A distanza ravvicinata può anche uccidere un ordigno assolutamente simile? Assolutamente sì, assolutamente sì. È tutto per questa edizione di GR24, naturalmente vi raccomandiamo prudenza, soprattutto per i bambini. Sono le 13:12 minuti, è tutto per questa edizione di GR24, curata da Daniele Biacchessi, al microfono Enrico Pagliarini. Ringrazio anche Carmelo Lauricella che si è occupato della parte tecnica. Tra poco Giampaolo Musumeci, il GR torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.